in cui l'alma di assaggio di se stessa. Regina, sei più amore, più regina non sei. Costui quanta importuna, solleto chiude la corona vacilla, a serbar dell'ottone sulla sante, fido vassallo e cavaliero. Che mi toglie il diadema, mi ritoglie un suo don, se perde il capo d'insigne regina, a me costante resta il cuor di Griselda. Io se le pone anche in braccio a Gualtiero, svelerò che ne toglie il nome di regina e quelle moglie. Vieni qua, e io potresti, e dammi credi. Pensa che non rifiuto, perdi troppo. Che perdo? Regno. Che mio non era. Grandezze. Oggi dovere. Sposo. E le corestane d'alma mia scolpito. Mi diedi il cielo e dai me il toglie. Ah, che purtroppo io sento nel lasciarti Verardo delle perdite mie tutto il tormento. Guardo, Griselda, date pro questo ferro, ed un suo colpo trucherai poi per egli, e se le cose forse dipenderò, la mia pietà, ecco, Griselda, libera un giorno che sorgo a tuoi lamenti, anch'io mi riderò di tuoi tormenti. Vellare questo, in amor lo sdegno troppo confonde, ed a tre passi il segno.